E sì, per una volta in vita mia voglio provare a cantare una canzone politica, perché ne ho proprio le palle piene di ogni governo che viene a fare schifo alla mia nazione che voglio tanto bene, sì, ma tanto bene che manco so dire. E questa sarà la mia canzone per te, Italia bella mia, come una Madonnina. Non mi viene un'altra rima e perciò mi sono rotto il cazzo e cercherò di variare un po' da qui. Sì, lo so e tu lo sai che il mondo va così e non c'è proprio un cazzo da fare, un cazzo da dire. Dobbiamo reagire a questa merda che ci vogliono fare mangiare come se fosse Nutella. Bisogna di dire quello che penso adesso di Berlusconi, per esempio che porco ricco è, che pensa solo a sé e non dà un cazzo a me, che avrei tanto bisogno di soldi, che farei cose belle per l'Italia mia. Cominciare da uno street club, un night club, è un altro club. Sì, l'Italia va a puttane, diamogli puttane, diamogli puttane. Sì, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.